Accettando l'analogia implicita nella parabola dell'ospite, quali esempi di eminenti personaggi post-esilici addussegli? Tre ricercatori della pura verità: Mosè d'Egitto, Mosè Maimonide, autore di Moreh Nebuchim, La guida dei perplessi, e Mosè Mendelssohn, così eminenti che da Mosè d'Egitto fino a Mosè Mendelssohn non sorse nessuno pari a Mosè Maimonide. Quale affermazione fu fatta con riserva da Bloom riguardo a un quarto ricercatore della pura verità a nome Aristotele, menzionato con licenza da Steven? Che il ricercatore menzionato era stato alunno di un filosofo rabbinico dal nome dubbio. Furono menzionati altri illustri anapocrifi figli della legge e rampolli di una razza eletta o reietta: Felix Bartholdi Mendelssohn, compositore; Baruch Spinoza, filosofo; Mendoza, pugile; Ferdinand Lassalle, riformatore, duellante. Quali frammenti diversi di antico ebraico e di antico irlandese furono citati con modulazione di voce e traduzione testuale dall'ospitato all'ospitante e dall'ospitante all'ospitato? Da Steven: Shul, shul, shularun, shul gosoker, agus shul gokyn. Va, va, va per la tua via, va tranquilla, cammina con attenzione. Da Blum: Kifeloch, arimon rakateich, mbad lzamateich. La tua tempia tra i tuoi capelli è come una fetta di melograno. Come fu fatto un paragone glifico dei simboli fonetici di ambo le lingue a conforto del paragone orale? Per giusta posizione, nella penultima pagina vuota di un libro di bassa qualità letteraria intitolato Le dolcezze del peccato, esibito da Bloom e disposto in modo che la copertina venisse a contatto con la superficie del tavolo, con una matita fornita da Steven, Steven scrisse le lettere irlandesi corrispondenti a G, A, D, M, semplici e modificate. E Bloom, a sua volta, scrisse le lettere ebraiche Gimel, Aleph, Dalet e, in assenza di Mem, un Kof in sostituzione, spiegando i loro valori aritmetici di numeri ordinali e cardinali, cioè a dire 3, 1, 4 e 100. Era la conoscenza che i due possedevano di ciascuna delle due lingue, la morta e la restaurata, teorica ovvero pratica. Teorica, essendo limitata a certe regole grammaticali di morfologia e di sintassi e praticamente escludendo il lessico. Quali punti di contatto esistevano tra queste lingue e tra i popoli che le parlavano? La presenza dei suoni gutturali, aspirazioni diacritiche, lettere epentetiche e servili in ambo le lingue. La loro antichità, ambedue essendo state insegnate nella pianura del Shinar 242 anni dopo il diluvio, nel seminario istituito da Phineas Forsyth, discendente di Noè, progenitore di Israele, e ascendente di Eber e Eremon, progenitori d'Irlanda. Le loro letterature archeologiche, genealogiche, agiografiche, esegetiche, omiletiche, toponomastiche, storiche e religiose, comprendenti le opere di rabbini e kuldis, la Torah, il Talmud, Mishnah e Gemara, la Massora, il Pentateuco, il libro della Vacca Scura, il libro di Balimot, la Ghirlanda di Hoff, il libro di Kells. La loro dispersione, persecuzione, sopravvivenza e rinascenza. L'isolamento dei loro riti sinagogali ed ecclesiastici nel ghetto, abbazia di Santa Maria, e nella casa di Dio, taverna Adamo ed Eva. La proscrizione dei loro costumi nazionali con leggi penali e limitazioni di abbigliamento per gli ebrei. La restaurazione in Cana a Davide di Sion e la possibilità per l'Irlanda di autonomia politica o di devoluzione. Quale inno intonò Bloom parzialmente come anticipazione di quella consumazione multipla etnicamente irriducibile? Kolod baleiav pnima, nefesh Yehudi omia. Perché s'arrestò la salmodia alla conclusione di questo primo distico? in conseguenza di una mnemotecnica difettosa. Come compensò il salmodiante questa deficienza? Con una versione perifrastica del testo integrale. In quali comuni riflessioni sfociarono le loro mutue meditazioni? La semplificazione crescente, reperibile nei geroglifici epigrafici egiziani fino agli alfabeti greco e romano, e l'anticipazione della moderna stenografia e del codice telegrafico nelle iscrizioni cuneiformi, semitiche, e nella scrittura ogam, virgolare e quinquecostale, celtica. Assentì l'ospite al desiderio dell'anfitrione, doppiamente, apponendo la sua firma in caratteri irlandesi e romani. Quale fu la sensazione auditiva di Steven? Udì in una profonda, antica, maschia, inconsueta melodia l'accumulazione del passato. Quale fu la sensazione visiva di Bloom? Vide in una svelta, giovane, maschia, consueta figura la predestinazione di un futuro. Quali furono in Steven e Bloom le quasi simultanee, quasi sensazioni volitive di identità celate? Visiva, quella di Steven. La figura tradizionale dell'ipostasi raffigurata da Johannes Damascenus, Lentulus Romanus ed Epiphanius Monachus come leucodermica sesquipedale con capelli cupovinosi. Uditiva, quella di Bloom, l'accento tradizionale dell'estasi della catastrofe. Quali carriere future erano state possibili per Bloom nel passato e con quali modelli? Nella Chiesa, cattolica, anglicana o non conformista. Modelli, il molto reverendo John Conmee S.J., il reverendo T. Salmon, D.D., prevosto di Trinity College, il dottor Alexander J. Dowie, nel foro inglese o irlandese. Modelli, Seymour Bush K.C., Rufus Isaacs K.C. Sulle scene, moderne o shakespeariane. Modelli, Charles Windman, attore comico, Osmond Cher, morto 1901, interprete classico di Shakespeare. Incoraggiò l'ospitante e l'ospite a salmodiare con voce modulata una strana leggenda su tema affine? In modo rassicurante, essendo in luogo appartato, dove nessuno poteva sentirli, rassicurato lui stesso, dato che le bevande decotte, eccettuati i residui sedimenti subsolidi d'una mescolanza meccanica, acqua più zucchero più panna più cacao, erano state consumate. Recitare la prima parte maggiore di questa leggenda cantata. Il piccolo Harry Hughes, coi compagni di scuola, se ne andò a giocare a palla, e la prima palla che Harry Hughes tirò nel giardino dell'ebreo andò. La seconda palla che Harry Hughes tirò, le finestre dell'ebreo spezzò. Come ricevette il figlio di Rudolph questa prima parte? Senza complicazioni di sentimenti, sorridendo da ebreo, udì con piacere e vide la finestra intatta della cucina. Recitare la seconda parte minore della leggenda. E la figlia dell'ebreo, tutta in verde, venne fuori. Torna, torna, bel bambino, e alla palla gioca ancora. Tornar non posso, tornar non voglio, e gli amici miei lasciare. Se il maestro lo sapesse, cara la dovrei pagare. Con la bianca man lo prese ed in casa lo portò, e arrivati in una stanza dove niun sentirlo può, tirò fuori un temperino. La sua testa cader fa, più non gioca ora a palla, e coi morti se ne sta. Come ricevette il padre di Millicent questa seconda parte? Con sentimenti contrastanti, non sorridendo. Con meraviglia udì e vide la figlia di un ebreo tutta in verde. Riassumere i commenti di Steven. Uno fra tutti, il più piccolo di tutti, è la vittima predestinata. Una volta per inavvertenza, la seconda con premeditazione, egli sfida il suo destino. Esso giunge quando egli è abbandonato e sfida lui, riluttante. E quale apparizione di speranza e giovinezza lo afferra senza che egli resista. Lo conduce in una dimora ignota, in una stanza segreta e infedele, e là, implacabile, lo immola, consenziente. Perché era l'ospitante, vittima predestinata, triste? Desiderava che il racconto d'un fatto, dovesse essere raccontato, di un fatto non suo, dovesse essere da lui non raccontato. Perché se ne stava l'ospitante, riluttante, senza resistenza, quieto, in obbedienza alla legge di conservazione dell'energia? Perché era l'ospitante, segreto infedele, silenzioso? Soppesava le eventuali prove a conferma o a smentita dell'assassinio rituale. L'incitazione delle gerarchie ecclesiastiche, la superstizione del volgo, la propagazione di voci in particelle infinite di veridicità, l'invidia della ricchezza, l'influsso delle rappresaglie, il riemergere sporadico della delinquenza atavica, le circostanze attenuanti del fanatismo, della suggestione ipnotica e del sonnambulismo. Da quale, se ve ne sono, di questi disturbi mentali o fisici non era egli del tutto immune? Dalla suggestione ipnotica. Una volta svegliandosi non aveva riconosciuto la stanza in cui dormiva. Più di una volta svegliandosi s'era trovato per un tempo indefinito nell'impossibilità di muoversi e proferir parola. Dal sonnambulismo. Una volta dormendo il suo corpo si era alzato. Si era accovacciato ed era strisciato in direzione di un fuoco senza calore e giunto a destinazione, là, raggomitolato, non riscaldato, in vesti notturne si era disteso, dormendo. Si era quest'ultimo o altro fenomeno analogo manifestato in qualche membro della famiglia? Due volte, in Olle Street e in Ontario Terrace, sua figlia Millicent, Millie, all'età di 6 e di 8 anni, aveva emesso nel sonno un'esclamazione di terrore e aveva risposto alle domande di due figure in vesti notturne con un'espressione vuota e muta. Quali altri ricordi d'infanzia aveva egli di lei? 15 giugno 1889. Un querulo neonato di sesso femminile che piange congestionandosi e per decongestionarsi piange. Una bambina soprannominata Pedney Uragano che gira e rigira col salvadanaio in mano. Contava i suoi 3 soldini, bottoni del babbo. Uno, due, tre, una bambola, un ragazzo, un marinaio. Li gettò via tutti e tre. Bionda, da genitori bruni. Aveva ascendenti biondi. Tempo dei tempi. Una violenza carnale. Herr Hauptmann Hainau dell'esercito austriaco, tempi recenti, un'allucinazione, tenente Mulvey della Marina Britannica. Quali caratteristiche endemiche erano riscontrabili? Inversamente, la conformazione nasale frontale derivava in linea diretta da una razza che, benché interrotta, sarebbe continuata a intervalli di tempo distanti. Fino agli intervalli di tempo più distanti, fino agli intervalli di tempo più distanti di tutti. Quali ricordi aveva egli dell'adolescenza di lei? Aveva relegato in un angolino il cerchio e la fune per saltare. A Duke's Law, su richiesta di un turista inglese, aveva rifiutato che questi prendesse e portasse via una sua immagine fotografica, obiezione non motivata. Sulla circonvallazione sud, in compagnia di Elsa Potter, seguita da un individuo dall'aspetto sinistro, discese fino a metà di Stamer Street e si voltò bruscamente, motivo non precisato. La vigilia del 15° anniversario della sua nascita, scrisse una lettera da Mullingar, contea di Westmeath, facendo una breve allusione a uno studente del posto, facoltà e anno non precisati. Quella prima separazione, implicante una seconda separazione, lo affliggeva. Meno di quanto avesse immaginato, più di quanto avesse sperato. Di quale seconda separazione ebbe contemporaneamente coscienza in maniera simile, seppur diversa? Una sparizione temporanea della sua gatta. Perché simile? Perché diversa? Simile perché spinte ambedue da un movente segreto, la ricerca di un nuovo maschio, studente di Mullingar, o di un'erba curativa, valeriana. Diversa a cagione di diversi ritorni eventuali agli abitanti o all'abitazione. Sotto altri riguardi erano le loro differenze similari? Per la passività, per l'economia, per l'istinto di tradizione, per l'imprevedibilità. Cioè? cioè in quanto, chinandosi, sorreggeva i capelli biondi perché lui le mettesse il nastro, vedi gatta che inarca il collo. Oltre a ciò, sulla superficie piana del laghetto di Stevens Green, tra gli alberi inversamente riflessi, il suo sputo non commentato, che descriveva cerchi concentrici d'acqua, indicava con la costanza della sua permanenza il punto esatto dove si trovava un pesce orizzontale e sonnolento. Vedi gatta che spia il topo. E ancora, per ricordare la data, i combattenti, l'esito e le conseguenze di una famosa operazione militare, si era tirata una treccia. Vedi gatta che si lecca sopra le orecchie. Inoltre, ancora, Millina Sciocchina aveva sognato d'aver fatto una conversazione senza parole e senza ricordi con un cavallo che si chiamava Joseph. E a lui, adesso, aveva offerto un bicchierone di limonata che esso, egli, sembrava aver accettato. Vedi gatta che sogna accanto al fuoco. Quindi, per la passività, per l'economia, per l'istinto di tradizione, per l'imprevedibilità, le loro differenze erano similari. In quale modo aveva egli utilizzato i suoi doni di nozze? 1. Una civetta. 2. Un orologio. Per interessarla e istruirla. Come lezioni concrete per spiegare: 1. La natura e le abitudini degli animali ovipari, la possibilità di navigazione aerea, certe anomalie della vista, il processo secolare di imbalsamazione. 2. Il principio del pendolo, esemplificato in bilanciere, ruota dentata e regolatore. La trasposizione in termini di organizzazione individuale o sociale delle varie posizioni in senso orario di indicatori mobili su un quadrante immobile. L'esattezza della ricorrenza oraria di un istante in ogni ora, quando l'indicatore più lungo e il più corto erano allo stesso angolo di inclinazione. Videlicet 5 minuti e 5 undicesimi in più all'ora per ogni ora in progressione aritmetica. In quali modi aveva essa ricambiato? Aveva buona memoria. Nel 27° anniversario della sua nascita, gli aveva regalato una tazza salvabaffi da colazione di porcellana imitazione Crown Derby. Era previdente. Alle scadenze trimestrali o intorno ad esse, se e quando acquisti erano stati fatti da lui, non per lei, si mostrava attenta alle sue necessità, anticipando i suoi desideri. Sapeva ammirare. Un fenomeno naturale, essendo stato spiegato da lui per lei, esprimeva l'immediato desiderio di possedere, senza acquisizione graduale, una frazione della sua scienza, la metà, il quarto, una millesima parte.